chiacchiere ti istintivo, solo chiacchiere ti istintivo. ...22:47 minuti primi. Le frequenze sono gli 87,9 della banda romana e laziale di Radio Onda Rossa. La birra l'abbiamo stappata. Avevamo sottratto il giorno del 25 dicembre un coltello dalla radio, un coltello da cucina, insomma, dalla radio. Te lo faccio vedere, è veramente brutto. Una cosa che proprio, ecco, uno si ruba involontariamente una cosa e poi ovviamente invece molto volontariamente la riporta, perché è veramente orribile. Lo diciamo, ti sei rifiutato, insomma, di tenere questo oggetto. Assolutamente, andrà riportata, cioè. Però c'ha il suo fascino, eh? Per la radio, cioè, che è piena di oggetti estremamente kitsch, orrendi. E non solo oggetti. Sì. Se passate, parliamo se di noi, passate, eh? Se vi trovassi a passare per via Le Porci 56 ora, non è un bel... Se riuscite a scorgere il nostro volto dalle nostre chiome, insomma, fluenti attraverso, sì, le tapparelle delle persiane, non è un bel vedere. Zaie, 0649 1750, dal momento che mi sembrate abbastanza addormentati e addormentate, questo è 25 o'clock, ve lo ricordiamo, di... No, giustamente, insomma, penso che chi era all'ascolto fino a qualche minuto fa sarà rimasto come minimo basito, quindi sono in una fase un po' di risveglio. Può essere, forse. Però insomma le prove tecniche di trasmissione sono finite. In qualche maniera sono quasi le prove tecniche di trasmissione sono quasi tranquille, tutto sommato passano, perlomeno non sono arroganti come noi, ecco. Beh, no, apro una parentesi. Un dolce bacino sul nasino a elettrodo. È una dedica, ciao, dopo. Sì. Gli mandiamo una cosa di Cristina D'Avena più tardi. Ce l'ha chiesto. Il rude elettrodo, che salutiamo, appunto, che a testa è finito di allietarvi con le proprie cerebrali manipolazioni musicali. Allora andiamo a portare subito la nostra solidarietà alle compagne del 22 di Via dei Volsci. Ancora una volta sottoposte a un atto vigliacco, cioè all'ennesimo bombone che gli è stato piazzato sotto la porta della sede. La nostra solidarietà e vicinanza alle compagne del 22 di Via dei Volsci. E poi una cosa che possiamo fare finalmente dopo averlo riabbracciato qualche giorno fa. Il nostro saluto più importante, come amiamo dire al termine di ogni trasmissione e di ogni mercoledì / giovedì notte che si rispetti, il nostro saluto più importante va a tutti e a tutte coloro che sono costretti a condizioni e costrette a condizioni di limitata libertà personale, il carcere, la latitanza, la clandestinità, gli arresti domiciliari, e soprattutto al nostro fagiolino. No, Sì, che è detenuto, vai. No, vai. Detenuto nel carcere di Bibbia, lo abbiamo sempre detto, però potenzialmente sciagurato lui. Che si sente 25 o'clock, che cos'è? Un aggravante, una pena aggiuntiva proprio. Un disturbo in più, insomma. Un disturbo in più, comunque. L'altro è partito. Non ce ne volere. Sì, è partito la ventola del PC dell'A quando lo accendi che fischia. Vabbè, lasciamolo fischiare tanto. Vabbè, partiamo per questa sera che avevamo appunto iniziato la scaletta in. Abbiamo preparato la scaletta al contrario di altre volte, altri momenti. Iniziando con appunto un certo filologico, un senso, ma poi non vi preoccupate, ci perderemo fra poco nel non senso. Little black submarines operator, please put me back on the line. Told my girl I'd be back, operator, please. This is wrecking my mind. Oh, can it be? The voice is calling me. They get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Pick you up, let you down when I wanna go to a place I can hide. You know me, I had plans, but they just disappear to the back of my mind. Oh, can it be? The voice is calling me. They get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart. Ci siamo. No, questo, chiave blackout. Questo è il vero come again, eh? Come again, sì. Di solito il come again funziona, che insomma funziona o non funziona? Funziona o non funziona, si rimanda il pezzo, si rimanda da capo. Il pezzo da capo. Noi lo facciamo. Stiamo facendo proprio ripartire tutta la radio da capo. Sì, sì. Told my girl I'd be back, operate. E allora, però l'abbiamo detto, dai. Ne approfittiamo di questa nostra. Oh, can it be? The voice is calling me. They get lost. Fenomenale capacità di mischiare le carte. E di far comparire quello che non è. Anche se come Buciardi valiamo molto poco e ci sgamate subito, quindi da capo The Black Keys potrebbe essere ancora il loro ultimo lavoro, ma sono pick you up, let you down when I wanna go to a place I can hide. piuttosto fruttiferi nel fare uscire nuove cose, quindi The Black Keys, Little Black Submarine. The voices calling me, they get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. www.ondarossa.info, non ve l'avevamo ancora ricordato, è il sito della radio dalla quale, sul quale sono pubblicate in podcast le corrispondenze che la radio produce, nonché molte delle trasmissioni della radio stessa. Il palinsesto, le modalità di sottoscrizione per Radio Onda Rossa. E dicevamo prima della nostra solidarietà e vicinanza alle compagne vittime degli scherzetti, chiamiamoli così eufemisticamente, che hanno portato appunto ai danneggiamenti della sede di Viale Cosci 22. E questa è Wild Girl. Loro sono le Motorama, che hanno prodotto questo lavoro, Bass Fidelity, peraltro sottopostoci d'Arsor Banana. Place live in studio, quindi tutto in presa diretta, terza traccia appunto per Motorama. Wild Girl. We'll be right back. direi che già ci stiamo perdendo, benché la traccia non sia ancora finita, senti. Stiamo parlando di Boss Hog, questo lavoro del 1995, John Spencer ovviamente alla chitarra, Krista Martinez che credo fosse a quell'epoca la sua fidanzata, la sua compagna, non so come chiamarla, che in realtà faceva la gelatara. Eccola qua, vedi, è finita così. Ma quante ne sai? Bah, è roba vecchia, insomma, studiai all'epoca e... Comunque un lavoro, un dischetto, poi all'epoca c'erano i video in televisione e si scopriva molta della musica, non c'erano i canali di oggi, internet era così agli albori e molte delle cose si scoprivano attraverso le televisioni musicali, che peraltro dedicavano fortunatamente una parte della loro selezione, della loro proposta comunque commerciale a quelle che erano le tendenze, insomma, non proprio commerciali, insomma, di nicchia, di... vabbè. Comunque quella era Sick, la voce di Krista Martinez e Boss Hog. Allora, dato che abbiamo messo un po' di voce in mezzo alla nostra sbadataggine di questa sera, ricordiamo che siete ascolto Radio Onda Rossa e che Radio Onda Rossa vive grazie al sostegno degli compagni e delle compagne, degli ascoltatori e delle ascoltatrici che ne condividono il progetto editoriale. Abbiamo ricordato prima il sito www.ondarossa.info, dove troverete anche le modalità per sottoscrivere per Radio Onda Rossa. Però vi ricordiamo quello che è il metodo classico. Metodo classico assomiglia molto a come si fa la vinificazione dei spumanti, no? C'è sta il metodo classico, no? È vero? Allora, il metodo classico. Ma quanto sei brioso in questo 2014, ricco veramente di spunti interessanti. Anche parliamo anche di vinificazione. Dormito poco stanotte, in realtà. Oppure. Oppure negli ultimi giorni ci siamo molto vinificati. Ci siamo molto vinificati. Allora, 61 80 40 01, a memoria 61 80 40 01, il codice di conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma San Lollo. E a proposito, guarda qua chi ci abbiamo sul lettore di sinistra. Suonarono al forte due volte. Per due volte, una in un luglio, con il 20 luglio del 2012, e poi l'altro anno un po' più tardi. Loro si chiamano Coffin Cats. E It Happens Every Night, succede tutte le notti. Who's getting pissed off? Excuse me, I'm Lassie Hilbeck. Can you help me? Let's get it there. Did you hear the howling from the backside of the street? We're lost and terrifying and demons in fresh meat. The secret place where tombstones, you know it's common thing. Near about all the wicked days where love was burning. Lost Boys Choir, Clockwork Psycho, che appunto stanno in accoppiata coi Coffin Cats, qui presenti in manifesto, che suonarono appunto insieme lo scorso inverno in quel del forte gruppo Spalla, ma spaccarono dignitosamente. Sì, spaccarono tutti e due, e devo dire appunto che non possiamo dire Clockwork Psycho come gruppo Spalla, perché fecero la loro porchissima figura. Con la bassista che è un fenomeno veramente. Vabbè, autoproduzione dalla Slovenia, quindi per Clockwork Psycho, rockabilly dall'altra parte delle Alpi. E ora andiamo invece dall'altra parte dell'Oceano Atlantico, anzi sulla costa pacifica per l'esattezza, da Los Angeles. Guarda caso è uscita una tripletta, una serie di tre dischi che rievocano però tre loro produzioni non indipendenti, bensì per la Epic, cioè sotto etichetta della Sony. Però il gruppone vale veramente, è uno degli ascolti fissi da queste parti. E peraltro i tre dischi della Epic forse sono le tre cose migliori, boh, non lo so, insomma, lascio a voi, magari anche forse più profondamente fans dei Social Distortion. Somewhere Between Heaven and Hell. Sometimes I Do, Social Distortion, primi anni 80, eh. L'aria si fa etilica. Dopo Mike Ness e Social Distortion, Dropkick Murphys dall'altra parte della costa, ovvero sull'altra costa degli States, da Boston, la città più verde d'America. Climbing a Chair to Bed, la classica canzone degli imbriaconi, cioè cercando di salire su una sedia per usarla come letto. Gonna burn in the you. I guess I got too much to learn. Cause you had it in you every time my goddamn back was turned. I never knew you had it in you. I never had a clue. I never knew. Questi erano i Fat Stones di Rudy Pottrudi. I thought you meant all right when you said that's fine. E rimanendo più o meno in quei tempi là, forse i Fat Stones erano qualche annetto prima, però stiamo parlando di nuovo di 1995, una data che ritorna. Ed evidentemente uscirono dei bei dischi. Nel frattempo, qua inspiegabilmente, le luci rosse rimangono spente. 0649 1750. E ricordando che il personaggio che sta cantando normalmente indossa delle mutande metalliche, Bloom M. Off. No, volevo aggiungere solamente, sì, oltre le mutande metalliche, sì, di diverse metallo, sceglietelo voi. Sì, no, anche dei Ray-Ban tatuati addosso. Tatuati addosso, sì. Tatuati. A specchio, sì, sì. A goccia. Blow M. Off. Allora, e ascoltando quindi i Melvins e il loro ultimo lavoro, che si chiama Everybody Loves Sausage. Meglio. Traduzione? Traduzione, ogni... A tutti gli piace la salsiccia. Sì, sì, sì. Che in realtà è una salsiccia fatta in effetti di tutti i pezzetti differenti, perché è un insieme di cover delle più svariate gruppi, delle più svariate tendenze, risuonate nelle maniere più folli. E, dicevo, c'era qualcuno un po' di tempo fa che scriveva giustamente in una recensione che i Melvins o si amano o si odiano, non può esistere una via di mezzo. E devo dire che in realtà, poi ascoltando i Melvins, alle volte si finisce anche per odiarli, ma poi si riascolta in un altro momento e si scopre di amarli veramente in maniera profonda. Questo è squagliatume totale, follia allo stato puro, in cui non esiste, cioè anche quando sono serissimi, anche quando ce la mettono tutta, sono magnati totali. E vi garantisco, uno dei più bei concerti che ho visto proprio in questi ultimi anni fu proprio quello dei Melvins, ormai un 3-4 anni fa. E per quanto siano appunto poi serissimi sul palco, perché sono cioè serissimi, se fa per di quello entra con quei capelli in testa, non ti guarda in faccia e non ti si fila proprio, nel senso che lui ha suonato buona parte del concerto con le spalle al pubblico, quindi quasi schifando, insomma uno ci rimane un po' male, stiamo parlando di Buzz. Il resto del gruppo invece è abbastanza reattivo nei confronti della platea, ma sta cosa poi diventa aterosclerotico e anziano, la dico ogni tanto. Un concertone da paura in ogni caso, e per quanto appunto poi siano seri alla fine, cioè non nemmeno loro si prendono sul serio realmente, per quanto suonino a 25 anni, non so, forse pure di più. Niente, dai, Melvins soprattutto. E soprattutto in questo disco di cover, da cui abbiamo ascoltato Romance, Tales of Terror. Tales of Terror, ovviamente, era la band coverizzata. E nel frattempo che magari ti prepari per dire cosa succederà il 18, cioè fra un paio di sabati, di sabato, noi andiamo avanti. Ultimo lavoro per Ministry 2013 è la traccia che un po' mandiamo sempre da queste parti. Change of Look, Ministry. We'll be right back. pull the fucking lose. Allora ci siamo, ritorniamo in voce. Dopo l'ottimo lavoro del 2004 per quanto riguarda Oneda, si chiamava Secret Wars, e la seconda traccia Caesar Column, Oneda, che forse sono la formazione, la band di psichedelia che piace a chi non piace la psichedelia, per la loro attitudine appunto a delle ritmiche molto serranti che ricordano poi alcune così modalità delle composizioni elettroniche, o per la loro particolare, diciamo, dissonanza che può piacere a chi invece apprezza il post rock. Quindi si pongono un po' all'intersezione di questi generi, però con una vocazione assolutamente lisergica. Era un po' che non ascoltavamo questo Secret Wars del 2004, ne risulta un buon risultato, forse migliore dei dischi più pomposi successivi, più ricchi, più lunghi. Ma come si dice, le idee migliori vengono all'inizio. Allora, mentre Pill continua a navigare dissonante e lisergico sotto le nostre parole, vi andiamo a ricordare che vabbè, oggi ormai c'è stata la presentazione di Scarceranda presso la biblioteca abusiva metropolitana, ne reduce il fantasma. Invece ancora una presentazione di Scarceranda per dopodomani, per sabato 11 gennaio 2014. Comitato di quartiere Certosa in collaborazione con Shakespeare e co presenta presentazione di Scarceranda e pranzo sociale, con l'intervento di alcuni redattori e o redattrici di Radio Onda Rossa. Dibattito sul e contro il carcere. Radio Onda Rossa dal 1977, senza padroni e pubblicità, perché un'agenda contro il carcere 2014. Quindi tutto questo presso il comitato di quartiere di Villa Certosa dalle ore 13 in poi. In via dei Savorgan 72 a Roma, quindi sabato prossimo. E invece, andando avanti ancora di un altro sabato, fantasma, cosa troviamo? E quindi l'appuntamento per sabato 18 gennaio con Senior Surf per Genova 2001 al CSOA Forte Prenestino. Sono passati ormai 13 anni dalla giornata del vertice del G8 a Genova, città in cui prese corpo una delle più grandi manifestazioni di movimento a livello mondiale, ma che fu al tempo stesso luogo di sperimentazione di nuove tecniche di limitazione della libertà di manifestare, zone rosse, perquisizioni, arresti arbitrari, pestaggi, fino alle torture nella caserma di Bolzaneto e all'omicidio di Carlo Giuliani. Ai manifestanti presenti in piazza in questi 13 anni di processi è stata riconosciuta la colpa di aver messo in pericolo l'ordine pubblico della città di Genova, e per questa ragione 10 di loro sono stati condannati per reati di devastazione e saccheggio, con pene fino a 15 anni di carcere. Reati risalenti al periodo fascista, che sono stati così sdoganati per cercare di estenderli a ogni giornata di resistenza e lotta, come sta accadendo per i fatti del 15 ottobre 2011. La campagna 10% è nata per sostenere questi compagni e queste compagne, usati come capri espiatori per una manifestazione che a Genova ha visto più di 300.000 persone presenti a gridare contro il capitalismo neoliberista e lo strapotere della finanza. In particolare vogliamo ricordare che per 4 dei 10 condannati per devastazione e saccheggio si sono aperte le porte del carcere: Marina, il nostro fagiolino, Jimmy e Luca. Questa iniziativa è per loro e per tutti coloro che non hanno smesso di lottare. Quindi, per contribuire a Genova 2001, per avere appunto informazioni sulle vicende appunto della repressione post Genova e anche sulle vicende appunto dell'attualizzazione della repressione contro le lotte di questi giorni nostri, www.10%.it, vi rimandiamo a questi siti, www.10%.it e www.supportolegale.org. Quindi sabato 18 gennaio 2014 al Forte Prenestino suoneranno appunto Senior Surfer Joe in Live in Person with His Band nel tour 2014, e poi apriranno il concerto i Bomb Machine, e poi DJ set Tutti Frutti Apocalypse a cura di Murder Fars e Lubna Barracuda, che non manca mai in queste occasioni. E mentre la voce di Johnny Rotten Lydon maltratta i canoni musicali come solo lui sa fare, un altro che si prende burla della serietà, della modernità, della musica, delle cose ordinate. E con questa marcetta lasciamo la parola ai Baracca e Burattini, al fantasma. Come da un po' di tempo a questa parte, ultima uscita per Julian Kopp, Morte ai tiranni. Okay, Mexican Revolution Blues. Strangers came to Mexico, they treated us like shit. Though we called them gringo, they were clearly proud of it. Our lands they worked and plowed, our government scraped and bowed, till someone in the crowd said, too long have we kowtowed. And then it rains, artistas and ilistas wash them all away to the place they have remained until today. Wages of Ho Chi Minh, says I, and other revolutions failed. The police informer's known to me, already he's in my jail. Vladimir Lenin, you got it wrong. Senator McCarthy sucked my dung. Russian revolution done, Major Orfek, I said. Hey, Drug, don't Menshevik, I said. Hey, Drug, don't Menshevik. Rules of the game, says I, no nationalism here. Just hold your crypto-Nazi tongue, there's a suicide fly in your beer. Mao and Nixon sitting in a tree, K-I-S-S-I-N-G. Yanks already at the Chinese border. Welcome to the same old new order. Russian revolution done, Major Orfek, I said. Hey, Drug, don't Menshevik, I said. Hey, Drug, don't Menshevik. Yow! Lenin and McCarthy are shooting it out in Southeast Asia's killing fields. Who's behind this travesty, this Cambodian atrocity? Mao and Nixon sitting in a tree. K-I-S-S-I. E con questo niente, dovevo ricordare, mi ero dimenticato una cosa. Un abbraccio ad Antonella Elisabetta. E finisce così. They're going into their caves now. It's all quite stark. E visto che abbiamo varcato la mezzanotte, iniziamo con dei colori notturni: il nero, il blu e il viola. E questo è il titolo di un disco dei Midriasi, Black, Blue and Violet, uscito nel 2013 per la My Graveyard Productions. E loro vengono da Varese. È un po' di tempo che non li vediamo a Roma suonare. Loro sono i Midriasi, questa è Diagonal. Yeah. E questi erano i Midriasi da Varese. Adesso ci spostiamo negli Stati Uniti. Virginia, per la precisione, loro sono i Valchirie. Usciti con questo disco nel 2005. Membri poi dei Valchirie che sono andati ad ingrassare la scena doom americana. I vari componenti poi collaborano con Pentagram, Spirit Caravan, Baroness, e si sono fatti conoscere con questo disco. Ci riascoltiamo da capo Lost in the Darkness. We'll be right back. Mezzanotte e 20 e i Children of the Night, i bambini della notte, si stanno cominciando a far sentire e ci richiedono più cattiveria, quindi bisogna tirarla fuori adesso la cattiveria, perché noi appunto invece siamo dei mulliconi tremendi. No, sì, no, innanzitutto no, così no, per... Vabbè, un saluto ai bambini neri di Via dei Volsci. Benissimo, prima cosa. Seconda cosa, una precisazione riguardo 25 O'Clock. Allora, 25 O'Clock nella sua esecuzione... Perché c'è una... No, abbiamo bisogno di diverse precisazioni. Diverse precisazioni. Perché nella noi di preciso non abbiamo dimostrato, insomma. Nel suo svolgimento, nel suo evolvere, diciamo. Nel suo rotolare. Che era un termine che si usava molto spesso, The Rolling Stones, che veniva appunto da un altro tipo di mitologia. Sembrerebbe che noi facciamo degli errori tecnici di esecuzione, cioè lo sprovveduto potrebbe pensare, ma questi non sono capaci, chi perché so 20 anni, cioè, ma non è così, avete ragione, noi facciamo tutto a proposito, ad hoc, tutto proprio. A proposito, tutto studiato, cioè, tutto studiato, i nostri errori, gli errori, gli stacchetti, le pause sbagliate, il blackout di 2 minuti per dare quel senso di live, di live di rozzo, di punk a bestia. È il sangue. Io non ce l'ho più il noi sangue. Noi siamo purtroppo dei professionisti. Cioè, ci sforziamo tantissimo perché siamo dei professionisti proprio precisi, delle persone proprio. In realtà noi siamo precisisti, però. Cioè, solo la pettinatura che ci abbiamo. Cioè, vabbè, quella insomma. Ti dà idea di quanto tempo impegniamo appunto per. Che l'ha causato questa sera? Che sento una fragranza. No, la lacca, sì, dice. Sì, ti vedo il ciuffo particolarmente. È vero. Ci ho perso un'ora e mezza. Ti piace questa mesciatura che c'ho? Sì, rosso, verde, giallo, blu. Bello, molto bello. Maculato. Va bene, andiamo di oscurità. Loro sono gli Stillborn. Mi pare dalla Svezia. Da un disco del 1989. Che è Necro Spirituals. E questa è Street Satan. Mezzanotte 25, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 MHz di frequenza. E questo è 25 O'Clock. E rimaniamo in Svezia. Sempre ispirati dalla notte nera. È un disco del 2012 che è Lights Out. Questa è Endless Night, la notte senza fine, da capo Graveyard. Come da tradizione di 25 O'Clock è quella di proporre scalette schizofreniche, e noi sempre ispirati dall'oscurità questa notte ci ascoltiamo i Dark Angel da un disco del 1986 che è Darkness Descends. Dalla Los Angeles dei Dark Angel ci spostiamo in Canada. Rimaniamo sempre nelle atmosfere del trash, perché di filosofia ci siamo un po' rotti le scatole, eh? Questo è il nostro augurio per un 2014 di lotta. Perché siamo stufi delle definizioni, delle canalizzazioni, delle filosofie. Qui è solo Do or Die. Loro sono gli Annihilator dal primo disco del 1989. E questa è Welcome to Your Death. continuiamo il nostro viaggio indietro nel tempo, perché questo è un disco del 1987, da uno dei primi gruppi che fuse l'anarcopunk con il metal. Loro sono gli Amebics e questa è Monolith. Iniziava così. E dallo zozzo dell'Inghilterra degli Amebics ci spostiamo a Bologna. Dal secondo disco dei Nabat, Nati per niente, del 1996, questa è Niki Listaggio. Con questo pezzo invece andiamo a salutare Alessio e tutti gli ex Scum of Society. Questa è Europa Unita. Yeah. andiamo a ricordare che il prossimo venerdì 17 e sabato 18 in quel dell'Ateneo ci sarà il Brett Fest. Venerdì 17 suoneranno tra gli altri anche i Tear Me Down. Mezzanotte 56, andiamo a chiudere così la diretta di Radio Onda Rossa per quest'oggi. Dirette che ricominceranno domani mattina dalle ore 8 con la rassegna stampa, per poi proseguire con il redazionale 12:15 con Miss Pavlicenko, Osservatorio Antifa, il giornale della radio delle ore 13, ore 14 Visionari, la trasmissione sul cinema. Dalle ore 15 Teatro Valle Occupato. Dalle ore 16 Attica Blues, oltre la Black Music. Dalle ore 17 La Eschina del Sol, Bella Martis. Per poi proseguire dalle 18:30 con Profondo Rosa. Trasmissione sui movimenti LGBTQI. Dalle ore 19:30 il giornale radio. E poi dalle 20:15 la trasmissione di musica classica Allegro con fuoco. per poi proseguire con le repliche del nostro fagiolino in Noctibus Panis delle ore 21. E le dirette del giovedì andranno in chiusura con Apostasia, bella. E il nostro saluto più sentito va a tutti e tutte coloro che si trovano in condizioni di limitata libertà personale. Un saluto, ci vediamo ci sentiamo mercoledì prossimo. Sì, bella a tutti e a tutte, a mercoledì prossimo, e mi pare che non ci vediamo, come dici te, nel senso non abbiamo iniziative in cui saremo presenti in qualche maniera a fine settimana eccetera. Che no, ci stiamo riposando, ce l'abbiamo presa bella con Modina. Le iniziative di Schercerando le abbiamo ricordate. Sì, sì. No, però noi, dico, come noi scrausoni. A me non mi vedi neanche se mi vedi davanti, cioè esatto. Non neanche se mi pongo davanti a te. Immagino, però. Immagini che ci sia qualcuno dietro il microfono. Vabbè, bella così, dai, tagliamo. Buonanotte. Però Black Metal dei Venom, ma rimettiamo da capo. Da capo. Oh!